è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Stringere, ora basta, devi andartene, più lontano che puoi, con la tua luce amara, fuori dai denti. Ma vi rendete conto? Anche Paola Turci. Paola Turci che le canta a Silvio, come leggo oggi da un titolo di un giornale, devi andartene. Questi artisti, quando comincia a mancare un po' di creatività, cercano il facile consenso. E ormai, cosa c'è di meglio? Qual è l'obiettivo con il quale reclutare un po' di persone che vengano a comprare il tuo disco, che vengano a sentire le tue canzoni, caro Parenzo? Qual è? Così. Prenderselo non con è la così. Bestia ferita. No, alla fine di ogni dramma c'è sempre una canzone che accompagna il mostro che esce di scena. E allora musica, canta, Turci. Io questi qua francamente non li sopporto, questi artisti. Questi artisti, non è bella come musica. Questi artisti, una canzone, devi andartene. Poi dice delle cose oggi, no, al Fatto. Rivaluto anche Almirante. Ripenso ai Pasolini, ai Montanelli. La politica pensava davvero al bene del paese. Io la metterei insieme Almirante e Pasolini. Però, francamente, cioè, capisci che è tutto finito anche tutto. Da questo punto di noi vista. Noi siamo però dove ora? Noi siamo a Bruxelles, al Parlamento Europeo, a sondare un po' quello che, come dire, no? Le ricadute. Gli umori nel cuore pulsante dell'Europa politica. No, politica no, quelli che ci dettano la linea, veramente. Berlusconi, dolore per gli amici, mi sento tradito. Tour televisivo e radiofonico di Berlusconi. Ho provato molta tristezza, addirittura dolore in certi casi, perché tutte le persone che hanno ritenuto di lasciare la nostra parte politica erano persone a cui ero anche legato personalmente da anni, erano tutte persone che avevano partecipato all'inizio di Forza Italia e verso le quali io avevo un rapporto che non era soltanto un rapporto di collaborazione politica, ma era anche un rapporto umano di amicizia e di forte amicizia. Il dolore di Berlusconi tradito. E va bene, e poi dice non credo ad altri abbandoni nella maggioranza, Alfano è in pole position. Tutte cose che diceva questa mattina dopo un intervento drammatico di Napolitano nel pomeriggio per fermare i mercati. Perché sai che ieri c'è stato un mezzo pasticcio, anche di Napolitano, perché le cose erano rimaste un po' nel vago, quando è che viene approvata la legge di stabilità, quando è che si rimette Berlusconi, e subito i mercati stamattina puniscono. Sì, però Napolitano ha ricevuto Berlusconi a chiusura dei mercati, quindi... Sì, no, ma oggi però c'è stata la reazione. Doveva dimettersi Berlusca subito. Allora, Berlusconi che dice, dopo di me le urne impensabile ribaltone. Non esiste alternativa intanto alla maggioranza attuale, non è assolutamente pensabile che in una democrazia possano andare al governo le forze che hanno perso le elezioni, sarebbe il contrario della democrazia. Dopo le mie dimissioni si aprirà la fase delle consultazioni e sono sicuro, anche se questo naturalmente rientra nelle responsabilità del Capo dello Stato, che non si andrà alla formazione di nessun altro governo diverso dal nostro e che si tornerà alle urne. Allora, intanto è arrivata una notizia, sabato pomeriggio ci sarà il sì definitivo della Camera alla legge di stabilità. Questo significa che Berlusconi si dimetterà molto probabilmente sabato pomeriggio stesso, almeno secondo quello che possiamo immaginare. Tutto finito. Allora, prima di presentarvi subito un ospite, vi voglio far ascoltare che cosa ancora. Benigni. Oltre che Berlusconi, no, Berlusconi che dice vergognoso mercato di parlamentari, perché poi va bene tutto, no, nelle dichiarazioni, ognuno poi la vede come la vede, però Berlusconi che dice è vergognoso il mercato dei parlamentari, è una cosa. È francamente un po' troppo. È il bue che dà del cornuto all'asino. No, perché c'è stato anche prima il mercato dei parlamentari da parte della sinistra in altre occasioni. Sì, appunto. L'ha fatto Berlusconi adesso, succede sempre. Non è vergognoso quando lo fanno gli altri, cioè quando lo fa Casini. Sentiamo. purtroppo vi è stato un vergognoso mercato che i media vicini all'opposizione hanno presentato con la solita ipocrisia. Chi tradisce il centrodestra è un benemerito, mentre chi si era assunto in passato la responsabilità di sostenere il governo è stato definito un mercenario. Questo è vero, naturalmente, la differenza di valutazione anche da parte della grande stampa e dell'opinione pubblica, non c'è dubbio, però non è vergognoso il mercato dei parlamentari. Succede, l'ha fatto Berlusconi, l'ha fatto il centrosinistra, lo sta facendo Casini adesso. L'ultima cosa, ed è Rotondi, il ministro Rotondi, io lo voglio abbracciare fortissimo, è sempre simpaticissimo. Anche nei momenti più drammatici. Non si governa con 10 puttani. Ecco, va. Democristiano. Sentiamo. La DC buttò giù Lauro acquisendo 4 consiglieri e Lauro disse: non si governa Napoli con voto alt, perché mi devi far dire la parolaccia, la dicono tutti, la può dire anche un democristiano. Lauro disse: non si governa Napoli col voto di 4 puttani. Però non si vota l'Italia con 10 puttani. È quello che avete fatto per un anno. Questo è il passato e poco interessa. Beh, capita a tutti i gentili signori di ritenere che le puttane siano le mogli degli altri. Vorrei chiarire una cosa. Devi andartene. Va bene, siamo qui 800 24 00 24 con Gabriele Albertini, PDL, almeno fino alle 18:40. PDL? Punto interrogativo, ex sindaco di Milano. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie sindaco di avermi di invitato. Allora, Albertini, la prima domanda molto semplice è questa: secondo lei, che è qui rappresenta la Commissione Estera del Parlamento Europeo, non solo, insomma, è una persona che ha fatto in parte la storia del centrodestra nel nord a Milano come sindaco per 10 anni, insomma, è stato sindaco per 10 anni. Non esageriamo. In piccola parte. Ha governato la città di Milano. Un amministratore di condominio dignitoso. Allora, voglio dire questa cosa: secondo lei adesso bisogna andare a votare o bisogna fare un governo di larga intesa? Questo è importante. Me lo dico perché qui c'è proprio con una sincerità. Con sincerità. Dal cuore. Concede paro, nega sepere, distingue sempre. Vabbè, comincio con una frase gesuitica perché la mia risposta sarà chiara ma gesuitica. C'è paragura? Allora, c'è un po' paracuna, allora diciamo. Da un punto di vista formale sappiamo tutti che la democrazia parlamentare prevede la possibilità che ci sia un unico Parlamento e diversi governi. Ok, quindi lei non vuole rispondere. Cioè, questa prima illustro il caso, poi dico no, come? Illustra il caso. Devo annacquare la goccia di veleno se no che gusto c'è. C'è già notizia. Vabbè, dal punto di vista tecnico. Quindi nessuno può dire che attentiamo alla Costituzione, alla libertà, alla democrazia, se applichiamo le norme previste dalla nostra Costituzione. Se si fa un altro governo. Se si fa un altro. Del resto si è fatto sia con Berlusconi, addirittura in appoggio, il caso del governo Dini, quando allora mancò la Lega, no, di schianto nel 94, nel 95, e si è fatto poi successivamente in molti altri casi. Sì. Io ho fatto il sindaco con 3 presidenti del Consiglio che venivano in visita a Palazzo Marino: Prodi, D'Alema, Amato e poi Berlusconi. Ora, quindi, sotto questo profilo, non userei i toni da tragedia. Se ci fosse un governo di unità nazionale, non sarebbe un golpe. Assolutamente. Dal punto di vista anche della Costituzione. Anche se non ci fosse il PDL dentro? Questo è un aspetto un po' più delicato, perché negli ultimi tempi il nostro sistema, anche se non ha cambiato le regole formali della Costituzione, si è avvicinato a una sorta di repubblica, chiamiamola presidenziale. Vabbè, comunque ci vuole il PDL o comunque dentro, il sistema il maggioritario. Allora, quando si indica nella scheda elettorale il nome del candidato designato, che solitamente viene confermato anche dopo le consultazioni del capo del Presidente della Repubblica, questo aspetto dà un senso diverso alla leadership anche personalizzata. Ecco, però ci vogliono le urne o un governo vista la situazione, detto questo la mia personale opinione, io sono in Europa quindi non sono coinvolto in queste vicende se non come un punto di vista di un cittadino qualsiasi, non si butti giù che può fare le sue coraggio, modesto. Ecco, da un punto di vista, il periodo elettorale è il periodo in cui un paese vive una sorta di vacanza nelle istituzioni, no, perché tutti confliggono per guadagnarsi il ruolo di potere legittimamente, certo, in una meglio democrazia. Evitare le urne, giusto? È uno scenario inquietante quello in cui noi siamo aggrediti dai mercati, dalla finanza internazionale, abbiamo questa situazione di debolezza e mentre noi stiamo decidendo chi governerà il nostro paese. È uno scenario inquietante, lei dice. Sicuramente. Dunque, è meglio evitare le urne subito, giusto? Se si può trovare una maggioranza di governo che includa, che possa includere anche chi ha vinto le elezioni, questo dipenderà senza molto. Senza Berlusconi, mi sembra evidente, no? Beh, questo ormai è tutto da vedere, però credo che lo scenario che veda ancora Berlusconi Presidente del Consiglio diventa difficile per i veti che lo hanno anticipato la sua uscita e che si confermano anche nel momento in cui dichiara l'inizio. Albertini, è finito l'impero? Diciamo Zeus. Come dice lei? Come lo chiamava lei? Lo chiamava Zeus. Zeus, di definitivo c'è solo la morte. Però si può dire che è finito l'imperatore. L'imperatore è finito. È molto probabile che un ciclo storico si sia concluso. Cioè, però l'imperatore è alla fine. Quando finisce l'imperatore, che succede? L'imperatore, come tutti noi, finisce quando esala l'ultimo respiro fisico. No, e io non auguro né a Berlusconi né a altri. Parlando, ecco, politicamente parlando, è la fine di una stagione politica. Però è molto probabile che lo sia. Però non è una certezza, perché anche in questo scenario abbiamo avuto diverse sorprese anche dallo stesso Berlusconi e non solo da lui. Cioè, ci può essere l'ultimo colpo di coda di Berlusconi? Quale potrebbe essere? Magari non subito, non so, può darsi che non sia così scontato. Definitivo. Però, comunque, ecco, meglio le urne. Traffico, torniamo subito. Dopo il traffico, no, meglio, le urne è un momento. Ho detto no, che scusi, meglio le urne. Meglio evitare le urne. Sì, traffico. Meglio evitare le urne. Devi andartene via. Eccoci qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. Dunque, come ci dice Albertini, che lo ha chiamato sempre l'imperatore Berlusconi. Sì, simpaticamente. Sì, vabbè, no, certo, lo sappiamo. Ci tengo a rimane comunque una persona simpaticissima e buon amico, scoop nonostante la critica che viene fatta. Certo, il calcio dell'asino non mi appartiene. Scoop della zanzara. Umberto Bossi in collegamento. Buonasera Bossi. Ministro. Buonasera. Senta, gli ultimi sviluppi, vogliamo fare un commento sugli ultimi sviluppi? Dunque, legge. Gli ultimi sviluppi sono un casino infernale, non so cosa si può fare per uscire fuori, però sono la Lega, bene o male sono 10%, anche se va all'opposizione poi riesce a farlo, perché ma come 10%? Forse si bagna nel podio per la campagna elettorale, riesce ancora a combinare qualcosa di buono, vediamo, parlerò col Calderone di semplificare un po' questo porcato qua, quella chiamata lui, e poi vediamo così, ma ci mettiamo d'accordo. Scusi, facciamo, ministro, ma l'ipotesi di un governo Alfano-Maroni? Ma Alfano, Maroni mi ha fatto due maroni in questo periodo, potrebbe starci, sì, te l'abbiamo chiesto, però sì, non l'ha voluto, ci proviamo. Va bene, grazie per questo collegamento, sempre 800 24 00 24. Senta, torniamo ad Albertini quando fa Maroni, quando fa Bossi è meraviglioso. No, però tu mi batti, tu mi batti. Allora, le tue telefonate, comunque lei passa al terzo polo, mi sembra di capire. Sì, no, quando? Mi sembra quando? Di capire. No, io adesso ci sta pensando. Ci sta pensando però adesso, no? No, io per il momento ho abbastanza lavoro da fare dove sono. Cioè, il lavoro è una cosa. Il presidente della Commissione stanno andando all'UDC, molti stanno andando all'UDC, molti stanno uscendo dal PD, insomma alcuni stanno uscendo dal PDL. Sì, lei che fa? Visto. Resta? Al momento io non devo fare una scelta perché sono in una situazione in cui ho altre giusto responsabilità. Perché, giusto perché non deve fare una scelta? Che vuol no, dire? No, non è necessario che lo faccia. Posso riflettere, posso pensare. Ancora lo scenario. Sta pensandoci su, diamo soltanto questa suggestione. No, sta pensandoci ho criticato su alcune cose, come molti altri, come buona parte di alcuni elettori del nostro ambito consenso, che hanno fatto delle riflessioni su certe linee di condotta del governo e o comportamenti vari che non sono sempre stati. Stati coerenti. Ormai può parlare di libertà, Albertini. No, Casini l'ha chiamata. No, non mi ha chiamato nessuno. Io ho sempre parlato in libertà, anche quando ero assolutamente nelle responsabilità istituzionali in cui mi sono trovato, non ho mai tradito, come si dice, nessuno, ma ho sempre fatto scelte molto personali, soprattutto. Ma non ho mai tradito la mia coscienza. È sbagliato parlare di tradimento quando Berlusconi dice traditore, l'ha sentito prima, no? Allora, dolore per gli amici, mi sento tradito. È comprensibile sul piano personale e psicologico, conoscendo Berlusconi, che è una persona che ha queste caratteristiche molto personalizzate, di diciamo una psicologia fortissima, una personalità straordinariamente. Sul piano politico non esiste tradimento. No, sul piano politico posso capire il disagio e il rammarico di avere, diciamo, degli amici o dei collaboratori fino a poco prima che hanno girato la schiena, però questo accade ed è una delle componenti per cui può accadere, appunto, che si inizi una legislatura o un governo. Cioè non può protestare più di tanto Berlusconi quando parla di mercato dei parlamentari, lo può fare. Sul piano umano è comprensibile che l'UDC sta facendo complimenti ai parlamentari, secondo lei? No. Ma sono anche questi dei termini un po' approssimativi, perché la comprevendita sembra proprio un fatto di corruzione, ci sono dei soldi, ci sono dei favori, ci sono degli scambi di potere. Perché piano piano ogni giorno qualcuno prende e se ne va? Le motivazioni sono le più varie. È tempo di migrare. Le motivazioni sono le più varie, possono essere quelle. Piano piano, ma con calma. Non ho necessità di migrare perché mi trovo in una condizione di responsabilità istituzionale come presidente della Commissione del Parlamento Europeo, che non fa né cadere né nascere i governi nazionali, ma si occupa di altro. Ecco, ma per i mercati Berlusconi oggi non è un elemento di stabilità per i mercati, eccetera. Quanti soldi ci ha fatto chiaramente la permanenza di Berlusconi al attenzione, governo? Attenzione, la cosa che è successa oggi, voi potete darmene conferma, non avevo altro da fare, non ho seguito gli andamenti del famoso spread, che ormai è diventato nome di un cocktail, lo beviamo tutti nemmeno, i giorni. Non sanno nemmeno cos'è. Ecco, oggi mi sembra che nonostante l'annuncio delle dimensioni che avrebbe dovuto, secondo alcuni, mi sembra che abbia avuto un altro scossone. Quindi... Perché le cose non erano chiare, però, né quando erano le dimissioni, né qual era il percorso, né la legge di stabilità quando veniva approvata. C'è un'interpretazione da dare su questo che non è così chiara. Cioè, forse quando si pensava che la soluzione fosse l'alternativa a Berlusconi, perché è non credibile, perché gli scandali, perché... Cioè, anche l'annuncio di Berlusconi non ha prodotto un cambiamento. Quindi da questo la situazione forse è un po' più complessa di questa semplificazione, perché se fosse stato così semplice cambiare soltanto il capo del governo ipotetico per risolvere la situazione, forse può darsi che anche lo stesso Berlusconi, se fosse stato così, ma se il problema sono io, ma in realtà come stiamo vedendo non è proprio così, cioè la cosa è un po' più complessa. L'avvocato come commenterebbe dall'alto questa situazione molto complicata, la grande avvocato Agnelli? Se mi permettete, poi se volete faccio anche questa piccola gag, però ne ho un'altra di cose che mi viene nuova. In mente. No, è un'imitazione. Gag di Albertini. Non è un'imitazione, è il racconto che mi ha fatto una volta il maestro Muti quando era direttore musicale della Scala, ma prima era stato a Napoli svolgendo gli stessi ruoli. E c'era un sovrintendente di cui adesso non ricordo il nome, che era un personaggio molto sanguigno e aveva una trattativa sindacale molto complessa con gli orchestrali. Di Napoli, allora, e alle 2 di notte, dopo scioperi e domande e risposte, non succedeva mai niente. Il napoletano ha detto una frase, devo dire una parolaccia, ma spero che mi venga consentito farlo. Zona franca. Orongo tosto e vi fa male, orongo moscio e non tras, ma che cazzo volete? Ecco, ai mercati forse bisogna dire che... Beh, lo devo tradurre. Sì, ho capito. Solo ve lo porgo moscio e non passa. Ve lo porgo rigido, diciamo così, duro. Turgido e vi fa male, ma che la parolaccia che non la dico più. Esatto, allora i mercati che cosa vogliono? Forse vogliono qualcosa di più complesso che un semplice cambio di governo. Giornale radio delle 19, grazie a Gabriele Albertini. Siamo qui a Zanzara, 800 24 00 24. Parenzo si è dissolto e adesso torna tra noi. Intanto sentiamo il riassunto della giornata secondo il TG3 diretto da Bianca Berlinguer. Un'altra giornata drammatica, iniziata con i mercati che andavano a fondo, lo spread eccetera eccetera. Poi c'è stato un nuovo intervento di Napolitano. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Da Tempesta sull'Italia, spread senza freni, sfiora i 600 punti, crollano borsa e BTP, tassi oltre il 7%, Marcegaglia, siamo nel baratro. Dopo annunci smentite, Tremonti presenta in Senato il maxi emendamento con le misure anticrisi, pressing degli ispettori europei da oggi a Roma. Napolitano, presto un governo che possa prendere le decisioni necessarie, altrimenti il voto in tempi brevi, nessun dubbio che Berlusconi lasci. Fini e Schifani accelerano, la legge di stabilità va approvata subito, corsa contro il tempo in Parlamento, venerdì al Senato, sabato alla Camera. Berlusconi punta alle urne, ma crescono nel PDL i contrari, Lupi apre al governo d'emergenza, Scajola, elezioni non auspicabili per il Paese. L'opposizione, situazione drammatica, chiudere la crisi in tempi brevi, PD, governo di emergenza, Di Pietro, meglio il voto, Bersani ospite al TG3. In Grecia si dimette Papandreou, trovato l'accordo per un governo di unità nazionale, ma è ancora buio sul nome del nuovo premier. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stofanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Ma dov'è l'interprete di questa canzone? Parenzo, mi rispondi? Dove sei finito? Parenzo? Vabbè, non risponde. Non risponde e andiamo a sentire allora Lorenzo da Milano. Buonasera. Buonasera. Lorenzo, dica. Sì, sì, mi sente? La sento, dica pure. Ah, dicevo, io... Sì, la sento, dica. Sì, ho detto, non sto seguendo la trasmissione. Ho sentito all'inizio... che lei parlava, sì, del fatto che non capisce Paola Turci che fa questa canzone. Ma non è che non capisco, lo capisco benissimo. No, ma non importa, no, aspetti. Allora, ho detto che lo capisco, ritengo... lo capisco benissimo, non è che non capisco, lo capisco benissimo, guarda. Ma non, è... non c'è, aspetta, niente di più facile che fare una canzone contro Berlusconi, non c'è niente, allora, di più facile. Stavo parlando io, mi scusi. Grazie. Sì, ma decido io quando uno parla, penso... quando uno non parla, mi sembra chiaro. Ma non è che decide lei quando... Mi scusi. Ma infatti la faccio parlare, la faccio parlare tranquillamente, però la posso interrompere, lei interrompe me, io interrompe lei. Cosa che lei non fa con i suoi ospiti politici di turno, però fa niente. Ma non si preoccupi, lo faccio lo stesso. Ritengo normale che lei non capisca, perché secondo me lei è uno sguattero intellettuale del potere di turno. Bene, questa qua è una notizia molto importante, come avete sentito poco fa da Sebastiano Barisoni, perché è totalmente inaspettata, nessuno l'aveva mai prevista, e insomma Monti, senatore a vita, potrebbe essere nominato pochi istanti fa, caro Parenzo, che è tornato tra noi. No, ero a prendere questa notizia, ero andato a prendere... Ce la sapevi prima? Barisoni è stato il primo in assoluto in Italia ad averla. Ma ho il fiatone, sì, perché mi avevano chiamato dalla Farnesina, sì, ministro degli esteri, sì, qui c'è la Berlini, il ministro Berlini, cioè, perché c'è, sì, Berlini che sta allora... sopra, e mi avevano detto, guarda, Monti, sì, senatore a vita, sì, e io mi sono precipitato qui per darvi questa notizia, peccato che è arrivata fiatone... prima Lanza, è arrivato prima Barisoni, però. Beh, questo è normale, insomma. Normale. Normale. Fiatone, ciao. Al è duro lavorare qui. Perché eri venuto con la notizia in mano? Adesso, no? Ti sto portando Benigni, però voglio dare questo annuncio. No, non dire questa stupidaggine, no, però. Benigni tra poco alla Zanzara, perché ha parlato anche di Berlusconi. Cioè, sotto forma di audio, però. Sotto forma di audio. Comunque c'è Benigni alla Zanzara. Ti sto portando Benigni. Di che è falso? No, vediamo se è falso. Però un ascoltatore mi stava insultando. Dopo, sì, questa notizia è importante, perché adesso la dobbiamo valutare. Monti, no, senatore a vita. E la faremo valutare tra poco da un ospite di primissimo piano. Tra poco. Che sta scendendo, l'ho visto. Che sta scendendo. Bom, bom, bom, bom, bom. No, adesso non dire così, perché dai l'idea che sia uno un po' grasso. Comunque. Meno male che non è qui, sennò prendevi subito un po' di legnate. Però è una notizia molto importante. Adesso non bisogna, sì, scherzarci, no, sopra, come facciamo di sopra, perché Monti, senatore a vita, significa qualcosa o no? Significa qualcosa o no? Significa, no, che non sarà. O no? Significa. O no. Però significa... mi stava insultando il signor Lorenzo da Milano. Lorenzo Binismaghi? Sì, no, non è qui. Lorenzo Binismaghi. Allora, com'è che mi hai detto, no, sguattero? Io non la stavo insultando, sto reagendo perché ho smesso di ascoltare. No, ma va benissimo se mi insulta. Guardi che, no, va benissimo se mi insulta. Guardi, ma non è una grandissima. Insulto, è una constatazione. Comunque, no, ma adesso, io sto reagendo. Una constatazione, sì. Io sto reagendo perché... No, però me la ripeta, mi ritengo, scusi, mi ripeta l'epiteto. Lei è un intellettuale. Lei è uno sguattero intellettuale. Ma perché sguattero? È servile, le è servile con le persone. Ma nei confronti di chi sono servile, scusi? Ma perché sguattero come farlo parlare. Lei è servile nei confronti di chiunque rappresenti un qualunque tipo di potere. Lei è arrogante con chiunque telefona. E probabilmente si è dimenticato, ammesso che l'abbia mai studiato, quello che è il ruolo sociale della stampa. Lei ha abdicato mi faccia finire per cortesia, ha abdicato a questo ruolo trasformando una trasmissione dove le persone esprimevano il loro parere, ma infatti lei lo sta esprimendo, e a volte ricevevano delle risposte. Ma guardi che lei sta argomentando senza di cabaret. Allora dunque, caro Lorenzo, la dimostrazione che lei sta dicendo una cosa totalmente folle, ma lasciamo perdere, questa è una mia valutazione. Io sono sicuro. E il fatto che lei sta esprimendo, perché non mi lascia parlare invece di fare il comizio? Non faccia il comizio. Allora, semplicemente è la dimostrazione vivente del fatto che questa cosa non è vera. Lei sta esprimendo una posizione molto forte, molto corrosiva, molto se vogliamo, no, provocatoria su quello che sono io, sul mio modo di fare il giornalista, su questa trasmissione, eccetera. Dunque, qual è il problema? La sto lasciando parlare tranquillamente. Dunque, di che stiamo parlando? Lei sta esprimendo un giudizio molto forte su di me. Stiamo parlando del fatto ma lei che lo sta facendo, è una contraddizione vivente, lei lo sta facendo, sta esprimendo un'opinione molto forte anche contro di me, io la faccio parlare, e lei si contraddice, nel momento stesso in cui parla si contraddice, forse non ha capito questa cosa qua, lei parla e si contraddice nello stesso tempo. Mi dispiace doverlo ammettere, ma ha ragione. Stiamo parlando del fatto che la stampa ha un ruolo sociale. Sì. Lei ma questo adesso non parla del ruolo sociale della stampa. Lei ha trasformato la trasmissione in cabaret. Ammesso e non concesso che lei conosce e ha studiato il ruolo della stampa, anch'io l'ho fatto. E le infatti garantisco non l'ho che ritengo di infatti avere non l'ho studiato. Una cultura non l'ho studiato politica, perché me ne frego. Una cultura politica e un'etica in grado di ritrasformare la trasmissione che lei sta conducendo male in qualcosa di intelligente per metà del suo stipendio. La sfiderei volentieri. Benissimo, ma si proponga. Si proponga, questa è una cosa fantastica, si proponga, mandi il curriculum, si proponga, perché qual è il problema? Facendo. Ho una laurea in scienze storiche e una magistrale in scienze politiche internazionali, sono sicuro che invece di fare cabaret sarei in grado di ricevere dei pareri da delle persone e rispondere. Lei sta facendo e a seconda del politico che chiama, lei fa lo sguattero intellettuale con qualunque politico. Ma io adoro queste cose. Ma perché devi dire sguattero con significato con senso negativo? È uno snob. Questo gentile signore, dice sguattero? Lei è uno sguattero. Lei è uno snob. Lei è uno snob. Lei è uno snob. Ma chi sta rivolgendo? Ma non sono un servo come quel signore lì. Servo, che bello. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza, come diceva Dante. E da quella posizione ritiene di essere un libero pensatore. È veramente una cosa assurda. È assurda, non si può essere liberi pensatori quando si è prostrati. E lei, Cruciani, è prostrato di fronte ad ogni politico che arriva, qualunque sciocchezza dica. Io sto godendo come un pazzo. Quando lei dice queste cose, io godo. Lei fa anche bene. Fa anche bene a godere, perché sicuramente prende uno stipendio maggiore del mio, che ho un lavoro precario. Vabbè, che c'entra questo? E prende uno stipendio maggiore del mio facendo il servo. Veramente, è una cosa. Sto godendo come un pazzo. Ma infatti si rende conto della cosa straordinaria, no? Qualche cosa di genialità ce la devo avere, piccola cosa di genialità. Cioè, dico come dice lei, stronzate. Sono servo e probabilmente uno stipendio superiore al suo, e mi pagano per dire stupidaggini. Dunque, lei un po' di ammirazione ce l'ha o no? No, a lei la pagano. Non ce l'ha l'ammirazione. Ce la deve avere. Io faccio parte di quell'esercito di persone che ha vissuto la crisi. Ha un lavoro precario. Perché lei ha perso mezz'ora del suo tempo con Cruciani? E pago qualunque prezzo per la mia libertà e dignità morale e intellettuale. Io non posso dire la stessa cosa. Ho detto non credo. Non mi mette in bocca parole diverse. Capisco che lei è abituato con chi telefona a essere aggressivo e con i politici a essere Termine. Si è rotto il microfono. Ma si è detto che so quello che ho detto. non può più combattere. Io credo che lei aspetti che lo sguattro sta sistemando il microfono. Aspetti che lo sguattro sto sistemando il microfono. Gliela, ecco, gliel'ha tirata, ha spaccato il microfono a Bruxelles. Lo sguattro è tutto rotto, tutto finito. Sto sistemando il microfono. Diceva, scusi, caro signore. Come ancora? Fagli ripetere ancora. No, no, beh, io sto godendo. Voglio che lei ripeta di nuovo sguattero. No, lo sguattro. Siccome le sue tesi sono inutili, ci mettiamo qui a discutere perché siamo alla follia. E dunque, inutile che mi metto a discutere queste cose. Siamo al delirio puro. Per cui lasciamo perdere, lasciamo da parte. Come lottare? Lasciamo da parte la logica. Lasciamo da parte la logica che non esiste. Lei dà del folle a me. E non date sì, io sto dicendo quello a certe che ha detto, persone della che ha Lega detto. Che ha invitato e che hanno detto delle vabbè. Cose fuori dal mondo e lei vabbè, ha chinato lei... la testa e gli ha dato ma la cosa scelta ma sono due... ho chinato la testa perché è un servo lei sa la differenza lei sa la differenza tra quelli che cercano notizie tirandole fuori dalle persone e tra quelli che non lo fanno la sa questa differenza o no? Mi sembra di capire che non la sappia, dunque si taccia, rientri nella sua, come dire, nelle sue per carità, rientri nella sua vita quotidiana, spero che lei abbia un grandissimo successo nella vita, spero che prenda il posto di qualsiasi altro giornalista, se pensa di poter fare meglio di me questa trasmissione si proponga, non c'è nessun tipo di problema, l'abbraccio molto forte, anch'io, il suo sguattro preferito e l'aiuto sguattro. La spalla dello sguattro, comunque sì. il co-conduttore dello sguattro, l'abbraccia anche lui, fortissimo. Ritorni nella sua, come dire, nelle sue, così, oggi mi sa che ha passato una giornata un po' complicata perché si è perso un quarto d'ora per parlare con noi. È incazzato nero. Mamma mia. È incazzato Lorenzo? Detto non richiamare perché tanto non ascolto più la trasmissione da quando la conduce così. Sì. Ha perso mezz'ora in diretta. Veramente l'avete persa voi. Benigni alla Zanzara. Luca dalla provincia di Monza. Ripeto, messaggio per Bisignani. Messaggio per Bisignani. Tra poco Benigni alla Zanzara. Luca dalla provincia di Monza. Sì, pronto? Luca? Dica, sì, buonasera. Mi sente? Mario Monti, senatore a vita. Questa questo è la notizia tutto. Di pochi minuti questo fa. Mario tutto. Monti, senatore a vita. Sì, però uno non è che se uno è candidato a fare il presidente del Consiglio, non è che per forza deve passare dal Senato. Cioè, non è necessario. Per cui no. È una mossa ancora da interpretare. Tutti noi la possiamo interpretare nella direzione di Monti coinvolto nel governo, in un futuro governo. Dopodiché c'è bisogno di farlo senatore a vita. No, va benissimo senatore e a vita. E perché farlo ora, soprattutto? Vedremo. Tra poco ci sarà un commento molto autorevole, tra pochi minuti, molto sì, autorevole. Ne stiamo scaldando i motori intanto. Luca, provincia di Monza, buonasera. Sì, pronto, buonasera, mi sente? Sì. Dica. Vabbè. A parte il fatto che non si capiva vabbè. Il dunque di quel signore di prima cosa voleva. Vabbè, ma lasciamo per noi l'abbracciamo forte gli vogliamo, e gli vogliamo molto bene. Noi vogliamo bene a tutti, insomma, a tutti noi. Ho capito per cosa era intervenuto, vabbè. Niente, allora? Io volevo semplicemente dire che, vabbè, sono un vecchio sostenitore militante leghista. Sì, vecchio che significa? Quanti anni ha, scusi? Beh, a parte che io sto tornando, sto rimuginando su questa cosa dei senatori a vita, ma non sarebbe meglio abolirli i senatori a vita? Ma di che stiamo parlando? Senatori a vita? Adesso voglio dire una cosa veramente controcorrente rispetto all'establishment. No, ma perché ti danno così noia? Ma eliminiamoli i senatori a vita. Vabbè, ma allora eliminiamo anche i cardinali. Beh, dice, cardinali. No, ma non è la stessa, i senatori a vita, ma c'è bisogno ancora di pagare un senatore a vita. Ma non lo so. Paghiamo un altro senatore a vita. Però non tu che fai sempre le cose sulla casta, eccetera. Paghiamo un altro senatore, a vita. Se vi piace così. No, voglio dire, però non è che mi disturba il senatore a vita, ad esempio. Evidentemente ti disturba il senatore a vita. No, non mi disturba. Ah, non ti disturba. No, non me ne frega nulla, francamente. Cioè, adesso il fatto che mi interessa il fatto che il capo dello Stato ha nominato il signor Monti. Questo è curiosissimo in una fase di c'è così. La borsa, sentiamo la borsa. La borsa è molto importante oggi. Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara in diretta da Bruxelles, sede del Parlamento Europeo. Mentre Benigni decanta il 26esimo canto di Dante dell'Inferno. Questo ci importa poco per il 150esimo anniversario. Sì, dell'Italia. No, perché c'è stata prima di questo di Dante... c'è stato un intervento su Berlusconi molto divertente che dopo cercheremo di diffondere in tutta Italia qui dal Parlamento Europeo. Il tuo sguattro lo sta per recuperare Benigni tra poco. No, alla Zanzara. Sono lo sguattro, scusa. L'aiuto sguattro lo sta per portare a casa questa cosa qui. Il numero è sempre lo stesso, 800 24 00 24. facciamo scaldare un altro ospite che è già qui con noi, che già qui con secondo noi. Me non è necessario scaldarlo, no, però la notizia di oggi è che Mario Monti, rettore, se non preside, adesso non ricordo bene, della Bocconi, sì, preside mi sembra, e nonché ex commissario europeo, conosce molto bene Bruxelles, questi uomo posti, di queste sale, profilo. Questi corridoi, eccetera, uomo eccetera. Di altissimo profilo sicuramente, però con delle idee ben precise su quello che bisogna fare, sì. Liberalizzazioni, pensioni, eccetera eccetera. È stato nominato senatore a vita. E perché questo escamotage? Da Giorgio Napolitano. Il mio primo commento è: non abbiamo bisogno di un altro senatore a vita, eliminiamo i senatori a vita. Il commento di Mario Borghezio. Buonasera. Eccolo. Buonasera, buona padania a tutti. La mia riflessione è cauta e moderata. I senatori a vita non sono mai serviti a un cazzo. Questa come è moderata. Direi, moderata. Sì. Ma non è riferita alla persona, no, di Monti, verso il quale ovviamente abbiamo tutti il massimo rispetto, una persona di cultura, sì, stimata all'estero, sì, eccetera eccetera, sì. Però a che serve un altro senatore a vita? Nel momento in cui tutti diciamo tagliamo di qui, tagliamo di là, mettere delle nuove bocche da sfama a Mario, te conviene rifiutare il romanesco, glielo dice Mario, te lo dice Italia Profonda, non ci abbiamo bisogno di un altro senatore a vita del cazzo, ci avremo già quelli che ci stanno e non fanno un cazzo dal mattino alla sera, non vanno a votare, e questo dice il popolo di Roma, non si sente più, non, no, questo si dice sente, il, è il popolo di Roma, no? E quindi noi dalla Padania facciamo eco. Borghezio, il romanesco dice a Monti, Monti, te conviene rifiutare, che cazzo te tieni sta medaglietta che non serve un cazzo, e poi sto governo, sto Parlamento, chi lo sa quanto dura, meno dura meglio, Vabbè, perché c'è aria ad andare tutti tutto, a casa. I senatori a vita restano però, Borghezio. I senatori a vita no, i senatori a vita restano, e pure lo stipendio, prima di tutto non è, a mio avviso, il momento di aumentare le spese, no, è il momento in cui Padani e italiani propriamente detto, sì, siamo tutti sulla stessa linea. Ma è Padano, ci hanno rotto i coglioni con queste spese inutili. Ma vogliamo su questo, però devo dire, vogliamo tagli, eccetera eccetera. Detto sempre con rispetto, no, detto sempre esatto. Però devo dire una cosa. Su questo adesso mi attaccheranno, eccetera. Sì. C'ha ragione Marione Borghezio. Cioè, non c'è, volete fare Monti presidente del Consiglio? Ma perché? Per quello che l'hanno fatto. Ma basta, i senatori a vita, politico, ma di che parliamo? I senatori a vita, appunto, un giochetto politico. Un'altra spesa, dai, su, ma non è possibile. Beh, però minima spesa, massima resa, perché almeno fa due cose, no? Fa il senatore a vita, fa il presidente del Consiglio. Sì, ho capito, però le vuol dire che bisogna un governo a guida Monti. Nel momento in cui decide tutta l'Europa, anche il presidente del Consiglio fa un cazzo pure lui, perché deve soltanto firmare quello che dall'Europa gli dicono che deve fare. Sì, pure questo, quindi pure questo è il vero. Il povero Berlusca l'ha detto, devo dire, ha detto una grande verità. Il presidente del Consiglio, lui non si è espresso esattamente con questa finezza, dice non conta un cazzo, ma lo ha detto nell'intervista alla Stampa, mi pare, sì, anche, sì, sì, e lo aveva detto anche in precedenza, ha usato proprio questa espressione, però, comunque. Però dice, però non ha poteri, eccetera, eccetera. Via Tremonti dentro un Monti. Sì, togliamo il 3. Io penso che allora innanzitutto si prospetta la possibilità, è questa: Monti non credo che sia compatibile con la Lega, almeno insomma mi sembra, dalle sue parole sembra un po' non distante. Io rappresento soltanto il borghezio pensiero, questo non c'è dubbio, che però nella base profonda della Lega allinea profondamente, esatto. Scusi un attimo, nella base elettorale chi rappresenta Monti secondo voi? Rappresentate i voti, l'elettorato, eccetera. Monti chi rappresenta? L'alta massoneria. Come l'alta massoneria? Cioè, i massoni poteri, sono al potere, no, al potere, quei poteri forti, quei signori che io volevo andare a sentire al Bilderberg, che ancora molto educatamente mi hanno cacciato allora, calci in culo. L'alta massoneria, cioè che significa? Che massone? Dice, no, quei poteri super forti, so. Quei poteri super forti che periodicamente impongono il loro uomo. L'hanno imposto al sempre di Amato, adesso imporrebbero Monti. Ma perché Amato è massone? Ma sono personaggi, l'alta massoneria si intendono, cioè, ecco, Cappuccio, i Bilderberg, Cappuccio. I personaggi di altissimo livello. Ma che male fanno? Ma io non li accuso di nulla. No, però dando l'accezione di massone, certo, si dice che è una roba un po' oscura, negativa. Certo non sono eletti, e difatti Amato non era stato eletto, Monti non sarebbe un uomo eletto dal popolo. E quindi questa investitura direi appunto ricorda molto certi precedenti e certi meccanismi per i quali nei momenti in cui si deve come dire imporre una determinata svolta sono i poteri non eletti dal popolo che decidono, e questo secondo me è una fregnaccia. Vabbè, questa è una notizia che arriva. Questa di... è una buona notizia. Ma non è una notizia, in realtà è. Bossi dice: se dovesse contenere il maxi emendamento delle norme sulle pensioni e sul lavoro, perché si pensa degli interventi sull'articolo 18 e sulle pensioni di anzianità, Bossi ha detto non lo voteremo. Perché si immagina già un correttivo al maxi emendamento, infatti. Sì, però adesso, al di là del tecnicismo, cosa significa questa cosa? Che siccome sono delle cose. Significa che la fanno manovra capire... del governo Berlusconi non è sufficiente. L'Europa ha chiesto di più. Siccome sarà necessario fare la cosa delle pensioni, la Lega già dice noi non ci staremo. Perché si immagina, perché si immagina che ci sia proprio pronto un governo Monti. Perché si sta lavorando a questo. Però come lei esulta? Io sono qua quanto gode oggi, ora? Io dico che questa posizione chiara di Bossi riporta la Lega nella sua posizione tradizionale e nella sua posizione così necessaria al nostro paese, di una forza popolare che esprime i sentire e anche le esigenze profonde della nostra gente. Noi abbiamo milioni di persone, questo governo di larghe intese che si prepara, come lo definisce lei? Come lo definisce? Una grande puttanata. Perché sono non è espressione della volontà del popolo, quindi una grande truffa, per essere più precisi. Un imbroglio con tutti i suoi difetti. Il governo Berlusconi era espressione di una volontà popolare. Avrà sbagliato delle cose, certamente. Lui a un certo punto ha svolazzato qua e là. Come dice Santoro, Male forse alcuni collaboratori, sicuramente alcuni collaboratori. Non parliamo dei deputate scelte così come il diavolo è, ma almeno c'era un'investitura popolare e c'era il crisma della sovranità popolare. Quindi dice meglio un governo scelto dal popolo che un personaggio imposto dall'alto e anche nominato senatore a vita. Perché non l'hanno fatto un mese fa? Non era intelligente, preparato, alto esponente della Bocconi? Cioè, improvvisamente. Su questo però adesso come si può obiettare a una cosa di questo tipo? Esatto. Lasciamo perdere un linguaggio crudo, però la designazione puzzicchia un po' può essere l'uomo giusto nel momento giusto per fare cose che nessun governo politico vuole fare. Per me l'uomo giusto a continuare a lavorare alla Bocconi, a insegnare, a dirigere un'università di alto prestigio, non a caso padana. Niente a che vedere con quelle laureifici delle balle del profondo sud, dove danno la laurea a tutti i figli. Lasciamo perdere. Non voglio sembrare antimeridionale, perché sono cose dove va a finire. Abbiamo 30 secondi. Certo, quello che sto scartabellando sulla questione, che puzza parecchio, dei 100 milioni che dice siamo riusciti a ottenere per Napoli e per Pompei, quello che risulta è che è un'altra truffa, perché quei soldi lì non erano stati spesi e fanno parte di 1 miliardo di fondi, guarda caso, per il sud, per la cultura del sud, di cui i nostri carissimi amici campani non avevano utilizzato niente. Non sono nuovi stanziamenti, sono 100 milioni che non avevano usato quando potevano essere usati per creare posti di lavoro ma lì si sa che non voglio il posto di lavoro, voglio lo stipendio. 30 secondi e torniamo subito. Eccoci qui 800 24 00 24. Certo che avere oggi qui ospite a Bruxelles l'onorevole Borghezio mentre Benigni festeggia al Parlamento Europeo i 150 anni dell'Unità d'Italia è un'occasione ghiotta, onorevole, no? Dica qualcosa di bello. Perché non è andato a vedere Benigni? È suo ad ascoltare Benigni? Ma io penso che questo canto dell'inferno porterà una sfiga pazzesca nel momento in cui cerchiamo tutti assieme, purtroppo ci siamo ancora in questa Italia per adesso naturalmente, speriamo per poco. Ed andare a leggere un canto dell'inferno stralugubre per celebrare il 150esimo, direi che sembra una cosa inventata da noi indipendentisti, cioè è una cosa da metterci le mani sui coglioni. Al contrario, sta violando la sacralità di Benigni. Al contrario, Benigni è una persona simpatica. Sono quelli che hanno avuto l'idea di fargli leggere il canto dell'inferno per celebrare i 150. Nel concetto di grande padania ci starebbe. D'altronde Dante è notoriamente un padano. Però non è padano doc, Benigni, no? No, è padanizzabile. In che modo si può padanizzare? Padanizzabile, potrebbe essere anche dei nostri. nostri un domani. Quando facciamo la Padania libera, mica sta a Roma con quei buzzurri, viene da noi. Tutti i buzzurri, lei dice che non sceglie. No, però diciamo chi comanda, senza riferimenti ad altre sfere. Chi comanda a Roma, dice lei. A Roma. Allora, Alemanno è uno basta di quelli... entrare un ministero. Allora, sa che Alemanno che cosa gli ha detto, no? Recentemente? Non ha sentito. Ha detto di tutti i colori. No, ha detto una domanda precisa: qual è il peggior politico in circolazione? Senza dubbio Borghezio. Eh beh, questo diciamo, mi fa piacere per due motivi. Prima di tutto perché è una persona sincera, sì. E nel campo politico è raro, eccetera, certo, eccetera. Assolutamente. E in secondo luogo perché essere così additato come nemico numero uno, l'obiettivo numero uno negativo dal sindaco di Roma, è il massimo che possa augurarsi un indipendentista. Vuol dire che nel mio piccolo tengo ancora il mio posto. Ecco. Senta Borghezio. Certo, cioè, adesso con questa situazione di Roma che crolla, di tutto il paese, dell'Italia che va di merda, noi indipendentisti devo dire siamo più va male, più lo spread, piangiamo. Noi non piangiamo. Come non piangiamo? Non piangiamo. No, ma questa non piangiamo. Cioè nel crollo non piangete, è una cosa gravissima. No, perché parlo del crollo politico, no, poi la realtà è chiara, cioè, più l'Italia crolla e più voi godete, questa è la... più l'Italia centralista e statalista, vabbè, più i poteri romani vanno in merda, più l'Italia va male, più la Lega si convince del fatto che io penso da sempre che non serve un cazzo a governare a Roma e che bisogna invece prendere finalmente il toro per le corna e dire quello che tutti pensiamo, che noi siamo la Padania dell'Italia, non c'è frega un cazzo. Detto è tornato Mario. Questa Borghezio. È la zanzara. Borghezio è tornato dopo un paio di mesi di sospensione, mesi di sospensione, però è tornato molto battagliero, anche perché la situazione politica lo avvantaggia, diciamo la verità. 800 24 00 24. Mario Monti, senatore a vita. Mi pare chiaro, onorevole Borghezio, che la Lega comincia a definarsi. No, che vogliono far fuori la Lega, cioè vogliono fare un governo senza la Lega. Questo mi sembra chiaro. No, diciamo senza le estreme in generale, però in particolare senza la Lega. Se si fa un governo senza la Lega, la situazione sarà chiarissima. Cioè? Sentiremo ancora un po' di puzzo di merda, ma almeno non saremo anche noi nella merda. Si sentiva un po' in mezzo alle feci. Ministri, questo è imputato di mafia, l'altro è il terzo inquisito. Noi che siamo. Cioè, lei il ministro padani, romano non le padani piaceva. Padani puri, noi non. Però almeno siamo fuori adesso da questo. Adesso siamo fuori. Adesso allora, siamo. Però, dire, allora, nell'ordine, il primo che vuole fare fuori la Lega è Casini. Casini fa bene a non volere la Lega, perché con noi non c'è motivo di intendersi, siamo antitetici. Casini una volta dei centristi, lei fu spettacolare. Casini rappresenta veramente la filosofia di Caltagirone, no? Cioè? Che è quella degli evangelisti, a fra che te serve, sono questi, no? Come a fra ricorda che la frase è evangelisti. Ti do una mano, ti aiuto. Ti do una mano e te prende il braccio. Fini fuori la Lega. Fini è già fuori da tutto. Fini, che volete? Fini è finito. Un altro che non vuole la Lega mi sa che è Formigoni, qualcuno del PDL. Peccato Fini, perché questo almeno era di origine padana. Quindi... il termine fra virgolette traditorio po' ci sta, perché si è proprio venduto, si è stabilizzato a Roma. Formigoni succede pure, succede anche a Formigoni vuole, diciamo, l'intenzione di far fuori la Lega ce l'ha, nel PDL molti hanno intenzione di far fuori la Lega, ma non lo so. Formigoni, se Alemanno, Formigoni. Alemanno, altre persone così hanno, vogliono. Formigoni per adesso non ha sconfessato le sue posizioni federaliste, eccetera. Scajola, quindi, pure non mi sembra uno qui un altro c'ha la casa. Pisanu, ad esempio. Pisanu, io l'ho conosciuto. È un grande Pisanu. Presidente dell'antimafia, però. Sì, grande è stato ministro degli interni. Un ministro degli interni così in gamba che ha affidato a 400 manigoldi un treno su cui il povero Borghezio, col suo bravo giornale. Ma è colpa di Pisanu, eccetera. Certo che è colpa di Pisanu, perché un ministro degli interni non affida un treno. Allora, nel maxi emendamento. Un bello stronzo. Nel maxi emendamento. Ce n'è per tutti. Un attimo solo. Nel maxi emendamento dal 2026, pensione a 67 anni. Bossi dice impensabile Berlusconi che venga tradito dai suoi. L'Italia non finirà come la Grecia, sempre Bossi, ancora Bossi, governo tecnico, bello andare all'opposizione, dice. Non, frase che non necessita di commenti. Allora, sento di nuovo il Bossi con la voce, non quella con cui l'ha imitato qualcuno, sì, qualcuno che è mia conoscenza, sì, sì. Ma sento il Bossi del celoturismo padano. Il Bossi migliore. Sento il Bossi tornato nel suo ruolo. La Lega all'opposizione, cosa le fa venire in mente? Che tipo di... La Lega all'opposizione è il massimo per lei. È una Lega da oltre il 10%, una Lega. È il massimo per lei. È una Lega che può sfondare elettoralmente e soprattutto può riconquistare il cuore di quei padani che durante questi lunghi anni di governicchio, eccetera, eccetera, di cose fatte, promesse, compromessi, le leggi ad persona, ma de puttanate, eccetera, eccetera, e la gente non ne poteva più, certo. Noi senta, non potevamo uscire di casa e la gente ci strattonava, ma noi in fondo siamo lì per correggere, per controllare, la gente dice ma che cazzo controllate? Senta, Borghezio, era difficile alle volte far capire, mi sputavano in faccia, certo. No, quello l'ha sempre fatto gentilmente in global, sì. però diciamo che alle volte c'era anche qualche frase leggermente offensiva, tipo vaffa, e c'avevano ragione, Non è che c'avevano ragione, noi non siamo andati lì per rubare, non siamo andati lì per controllo. Senta, c'è stata un'alluvione anche a Torino, questo che è un fatto drammatico, che ha tirato via anche dei campi rom, Lo so. Ha già dato un altro parlamentare. Lascerei perdere questi commenti, perché quando ci sono dei fatti, diciamo, morti non ci sono stati. Però. Sì, però in altre parti del territorio ci sono stati. Da un certo punto di vista, il fatto che i campi rom siano scomparsi. Non mi associo a questa cosa. Non mi associo a questa cosa, perché quando si fanno le battute, vanno le battute. Siccome usciamo da una settimana in cui ci sono stati dei morti, i due bambini di Genova, eccetera, frase poi. Vedi che Borghezio anche lui su Monti ha detto quello che ha detto, invece su Monti è questa roba di Monti col cappuccio, pubblicità. Sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba molto spesso tu si corica, corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. Basta la parte, si avvicina, avvicina, creerà una festa un poco salica, salica, ma nella zanzara parti piatto forte siamo noi. Salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba molto spesso tu si corica, corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. Ai ai ai ai ai ai ai, basta la parte. Ai ai ai ai ai ai ai, adesso tieni gli occhi aperti e baciami, baciami, se ti lascia che piano si avvicina, avvicina. Eccoci qui, 800-24-0024, ma eravamo in onda anche prima, forse? Vabbè. Vabbè, parlavamo tra di noi, ma succede, può succedere, può succedere. Va bene, allora, reazioni di Bersani, eccellente la nomina senatore a vita da parte di Monti. Abbiamo qui ancora con noi Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Il moderato Borghezio. Moderatissimo Borghezio. Ma che significa i cappucci? I cappucci. Quando lei prima ha detto Monti, alta massoneria. Ma intendiamoci, nulla contro la massoneria propriamente detta, ma questi sono in realtà personaggi che non si riesce mai a quagliare. Vedasi l'episodio del Bilderberg. Ma per quale motivo non devono consentire che uno vada a sentire cosa discutono? No, se si discutono nel più assoluto segreto, io vorrei, mi domando anche se magari non avessero deciso loro quello che poi mesi dopo i burattini no, della politica dovevano decidere. No, ho capito, ma l'alta, quando lei dice rappresenta la cupola, l'alta massoneria. L'alta cupola politico-finanziaria mondiale. È un uomo che ha fatto il presidente della Commissione Europea. Ma guarda caso, tutte le volte che si riunisce la trilaterale del Bilder, questi ci sono sempre. Ma è un uomo delle istituzioni. Non è che chiamano me o lei o... cioè cosa rappresenterebbe un governo guidato da Monti? Una tecnocrazia che decide sulla pelle dei popoli, un governo dei banchieri, questa è la verità. D'altra parte la politica non ha fatto le riforme, qualcuno dovrà farle, no? Ma non i banchieri. Nessuno si è assunto la responsabilità di fare delle cose impopolari. Non i banchieri che dovrebbero essere tirati per l'orecchio. Bisognerebbe tirare le sassate i banchieri? Per l'orecchio. E chiamati alle loro responsabilità e soprattutto bene. A fare delle cose positive e non a centellinare gli aiuti all'economia reale come stanno facendo vergognosamente. Grazie a Mario Borghezio, grazie, buona serata. Dove va adesso? Padania Libera. Sempre Padania Libera. A Radio 24 ci voleva. Andiamo a festeggiare perché noi quando diciamo così... Come va a festeggiare? Perché festeggiamo? Ma noi c'è lo spread alle stelle, che festeggiamo? Ma noi festeggiamo. Ma non c'entra festeggiare, ancora siete al governo. Ancora formalmente siete al governo. Sento l'indipendenza che... Si avvicina. Cioè, più lo spread sale... Sento odore di battaglie indipendentiste. Padania Libera, via da Roma, Roma! Scusi, Roma ladrona, la Lega non perdona. Ma è Radio 24. Ma più lo spread sale e più la Padania si avvicina. La Padania si avvicina tutte le volte che questi fanno puttanate. Siccome grazie a Dio ne fanno tutti i momenti, adesso questo senatore Vita è proprio un regalo. In Padania non avverrebbe. Cosa Monti non ci sarebbero i senatori a vita? Ci sarebbe magari l'operaio premiato, il dirigente premiato, l'economia reale, il venditore di frutta e verdura, la gente che rusca, che lavora come noi dalla Padania, non quei romanacci di merda che non fanno un cazzo e li facciamo ancora. Siamo moderati. Padania Libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Ma Filippo da Grosseto, Padania Libera, libera, subito, ieri, Roma puzza, solo la Padania, se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo, Padania Libera, libertà, non riesco a fermarlo. Che devo fare? Come si fa? Filippo da Grosseto, mi aiuti lei, Filippo. Buonasera. Sempre detto con moderazione. Filippo, dica. Non è la diplomazia l'arma di Borghese. È partito per la tangente. Vabbè, Filippo, dica. Due cose. A parte che a Roma non c'erano solo quelli di PDL e PD, ma c'erano anche deputati della Lega che comunque facevano, diciamo, poco, quindi Borghese deve pensare anche ai suoi, oltre agli altri. E poi, seconda cosa, non penso che... Una domanda, ma l'utilità del senatore a vita di Monti dov'è? Come ha detto... Sono giochi politici. Va bene, giochi politici. Sono poi, giochi politici, noi, va bene, crisi, ho dato un giudizio molto... La crisi la subiamo noi, vediamo. Voglio dire, secondo me non serviva nominare un altro senatore a vita. Io gli senatori a vita li eliminerei in maniera drastica. Detto questo, fa parte, come dire, della possibilità che ha il Presidente della Repubblica di nominare il senatore a vita. Francamente non capisco, ripeto, nell'ottica anche di una nomina di Monti come Presidente del Consiglio, come possibile capo del governo, non capisco l'utilità di una cosa di questo tipo, però insomma ce la spiegheranno in mille salse, sempre utilizzando formule un po' astruse. Fabrizio da Udine, 800 24 00 24. Fabrizio, dica. Che puntata, dico mio, che puntata. Pronto? dica. Buonasera, la sento bene per le dimissioni di Berlusconi, no? Però prima vorrei fare un inciso, no? Qua si parla tanto di risparmiare e adesso ci mettiamo a nominare un senatore a vita, tanto paga pantalone come sempre, no? Questa è già una cosa che non va bene, insomma, periodo è quello che è, e nominare un senatore, si dirà che intanto cosa vuole che incida, come i costi della politica e tutti questi discorsi, però Io vorrei parlare più delle dimissioni di Berlusconi, in quanto il suo collega, diciamo, il suo invitato di ogni sera, Parenzo, una persona un po'... Non è un invitato, è un invitato. Un invitato, perché no? Ma è un invitato, no? La mia spalla, ma un co-conduttore. Sì, invitato, trasmissione. Che ha tutta questa euforia perché Berlusconi si è rimesso, si riconosce... Ma non è così, guardi, le posso assicurare, io frequento questo signore ogni giorno, accanto a me. Non gliene può fregare di meno delle dimissioni di Berlusconi, non gliene frega niente. Ma ogni giorno, che io sento ogni sera la Zanzara, e lei è tutto che gioisce, tutta un'euforia. Comunque, se le piaceva lo spettacolo, se le piaceva lo spettacolo di questi giorni, se gli piace così, se lo tenga. Nel 2005 il suo amico D'Alema aveva detto che doveva andare a fare l'elemosina sotto un ponte. Non è mai stato mio amico D'Alema. Politicamente. Nel 2006 doveva essere finito politicamente, e già due volte, ed è... Mai stato amico di D'Alema. Non c'è il 2 senza il 3. Lasci perdere. 1.200.000 tessere del PDL non le fate Alfano, eh? Se ci sono quelle tessere lì, è perché c'è Berlusconi, perché se non ci fosse Berlusconi il PDL non esiste. Comunque, se le piace Berlusconi se lo può tenere, Ma non lo può... lei si tenga il suo amico D'Alema. Il suo ma amico io non sono amico di D'Alema. Lo spettacolo di questi ultimi mesi, lo spettacolo, non c'è l'alternativa, perché che cosa è finito lo spettacolo, quello che si è fatto il patrimonio immobiliare con i soldi del finanziamento, ma chi c'entra? Ma perché mi cita D'Alema? Ma che mi interessa a me di D'Alema? Ma non devo difendere nessuno io. Comunque, se le piace Berlusconi, Rubi, Milanese, Papa, il ministro Romano, ma se li tenga, se li porti a casa sua, tutti! Va bene, grazie. Chi era poi? Chi era? Fabrizio da Udine. Fabrizio, grazie. C'era ancora uno che si proclamava leghista di vecchia data oppure ha abbassato il telefono? Luca, dalla provincia di Monza. Luca, c'è ancora lei? Che voleva dire? Scusi, l'avevo interrotta. Dica. Sì, no, niente. Vabbè, ovviamente mi avete dato la palla sul piede quando si è portato di Borghezio. Innanzitutto volevo dire che, essendo comunque un leghista di vecchia data, appunto da 20 anni, in questi ultimi anni proprio la Lega, la linea della Lega non l'ho condivisa per nulla, non ho condiviso il loro apporto. Quale linea? Cioè la linea quella governativa, entrare al governo, quella, dice lei? No, quella sì, al governo, ma in modo incondizionato, solo ed esclusivamente col PDL e con Berlusconi. Sì. Quando la Lega, da quando è nata, si è sempre dichiarata comunque né di destra né di sinistra. Vabbè. Roma, Roma. Adesso questa condizione di Lega che si prospetta all'opposizione ancora non è certo, perché ancora ci sono i ministri della Lega, c'è il governo Berlusconi, comunque si può pensare a una Lega all'opposizione, è una cosa che le piace? Ora come ora le dico una cosa: negli ultimi 3 anni ho visto veramente questa crisi, proprio ho vissuto anche sulla mia pelle, però io voglio sapere una cosa: lei dice di essere un militante della Lega, ho capito, un militante della Lega deluso da questi anni di governo eccetera, adesso la prospettiva di andare all'opposizione le piace o no la prospettiva di andare all'opposizione? Sinceramente non me ne frega niente, perché non porterà comunque niente. Niente, lei è semplicemente deluso da questi anni di alleanza con Berlusconi. Sono deluso del fatto che comunque in 3 anni non hanno fatto niente e non hanno risolto nessuna condizione economica. Oggi è troppo grazie, pubblicità, torniamo su. Ho capito, non mi faccia il comizio adesso. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. E sentiamo Giampiero da Roma, prima di un ospite che è venuto a trovarci, di un altro ospite che è venuto a trovarci qui dal Parlamento Europeo, dove c'è stato un meraviglioso intervento di Benigni su Dante, non solo su Dante, anche su un minuto e mezzo, forse due su Berlusconi. Cerchiamo di proporvelo prima della fine di questa puntata. Mentre la notizia di oggi, dal punto di vista politico, oltre alla lettera di Napolitano che ha precisato alcune cose mentre i mercati andavano male, mentre lo spread si alzava, è sicuramente la nomina di Mario Monti, senatore a vita. Perché naturalmente questo potrebbe significare, secondo molte interpretazioni, che insomma Napolitano farà un tentativo dopo le dimissioni di Berlusconi, che probabilmente ci saranno sabato, dopo la votazione della legge di stabilità, che potrebbe fare un tentativo con Mario Monti. Allora chiedo subito a Mario Mauro, che è il capo delegazione del Partito Popolare Europeo Italiano qui a Bruxelles, se innanzitutto cosa ne pensa della nomina di Monti senatore a vita, se ci voleva in questa situazione in cui si criticano anche i costi della politica un altro senatore a vita. Buonasera innanzitutto. Intanto auguri al professor Monti, che per tanti anni è stato qui a Bruxelles punto di riferimento appunto per il nostro sistema paese. Credo che la sua nomina, mi sembra l'unica interpretazione possibile, sia un po' parlare a nuora perché suocera intenda, cioè? Vale a dire una sollecitazione ai partiti a considerare, valutare tutte le strade possibili per dare al più presto possibile un governo al paese. Questo non vuol dire che il capo dello Stato faccia una forzatura, questo vuol dire più semplicemente che... Sì, ma c'era bisogno, Mauro, adesso diciamo la verità, c'era bisogno secondo lei, al di là degli auguri, come è normale che sia, a Monti che ha collaborato anche con lei qui a lungo quando era commissario, c'era bisogno della nomina di un senatore a vita per dare un incarico? Questo che le domando. Cioè, no, ma non credo che la nomina sia legata al bisogno di dare l'incarico. Penso che invece il capo dello Stato, come sempre si fa attraverso la scelta dei senatori a vita, indichi un esempio, quindi un modello. Non necessariamente voglio dire ma questo vuol dire... Ma un segnale mercati può essere questo qua? Un modello è un esempio in questo senso, più in questo senso che non come qualcuno può immaginare suggerire che Monti sia designato per un particolare incarico politico. Penso invece che la nomina di Monti, giustificata dal valore della persona, possa rappresentare invece la messa in evidenza, già sottolineata peraltro da un uomo come Gianni Letta nei giorni scorsi, di qualcuno che ha uno standing internazionale da spendere. Senta, ma era opportuna, ripeto ancora questa domanda perché è una cosa che mi preme, su cui ho insistito questa sera e che secondo me solleverà comunque delle polemiche, delle discussioni. Era così necessario nominare un altro senatore a vita? Per carità, non è che cambia il bilancio dello Stato con un senatore a vita, però insomma è un altro senatore a vita, addirittura qualcuno pensava di eliminarli i senatori a vita. Su questo non sono d'accordo, nel senso che la nomina di un senatore a vita non è un modo di ottemperare le leggi di bilancio. La nomina di un senatore a vita persegue e nasce come prerogativa nella storia della nostra Repubblica con l'intento di fornire esempi al Paese in momenti sia di difficoltà sia di prosperità. Cioè l'accoglie positivamente questa nomina? Questo è nelle prerogative del capo dello Stato. No, d'accordo, ma lei, secondo lei è politicamente una cosa positiva? Mi sembra una cosa assolutamente senza tutte problemi. Tutte le mosse sono politiche, anche quelle di Napolitano, non è che ci possiamo nascondere dietro. Evidentemente io voglio sottolineare proprio questo fatto, mi sembra una cosa fatta con degli intendimenti precisi. Ora, capiremo forse meglio nei prossimi giorni quali. E allora però chiedo a Mario Mauro, esponente del PDL, secondo lei bisogna andare a votare o è meglio fare un governo di larghe intese? Bisogna andare a votare nel momento in cui non mi dia una risposta formale sulla Costituzione. Guardi, bisogna andare a votare. Io dico una cosa molto semplice, molto più direi coerente, perché noi ci troviamo in un frangente particolare. Stiamo per approvare, per esempio, una serie di misure. Sì, però le approveremo subito. Adesso. Sì, ma voglio proprio fare un'osservazione politica. Far passare queste misure si può fare in tanti modi. Per esempio, se si fa come si è fatto passare il rendiconto generale dello Stato, mi sembra un modo evidente per dire non è possibile fare il governo di larga intesa. Se invece le opposizioni o parte delle opposizioni votassero le misure che sono corrispondenti agli intendimenti e agli impegni assunti dal governo, questo probabilmente aprirebbe lo spazio per impostare le cosiddette larghe intese, dalle quali forse potrebbe nascere un governo. No, però io però adesso, al di là di quello che potrebbe succedere, secondo lei, siccome Berlusconi ha detto, e questo dopo il traffico magari lei mi darà una risposta più precisa, siccome Berlusconi ha detto non c'è nessun'altra alternativa se non quella di andare a votare, allora evidentemente la sua posizione è un'altra, no, le alternative ci sono, ci può essere anche un tentativo di fare un governo delle larghe intese, qui naturalmente ci dovrebbe essere il PDL dentro, cioè un governo che esclude la Lega con dentro PD, PDL, Terzo Polo e non so chi altro, per lei sarebbe una violazione della Costituzione oppure è necessario in un momento di emergenza come questo? La risposta di Mario Mauro, esponente di spicco del PDL, persona molto vicina al presidente Berlusconi, tra poco dopo il traffico. siamo di nuovo qui in diretta, 800 24 00 24. Molta gente mi scrive: i senatori a vita sono una cosa da Prima Repubblica, sono una cosa che certo appartiene alla nostra Costituzione, ma è una cosa, un'alchimia politica, una di quelle cose un po' barocche della politica italiana, e non c'è dubbio che la gente pensa così. Cioè, io mi faccio interprete in questo caso di quello che viene dalle persone, di quello che viene da chi ci chiama. Cioè è una mossa, come dire, nel solco, appunto perché serve forse a dare un segnale, o forse è la premessa per un incarico a Monti, oppure tante se altre serve cose. Serve per calmare la speculazione, ben venga Monti, senatore a vita. Ma sì, di chi parliamo? Allora, comunque. No, lei non pensa così, Mauro. No, ma abbiamo già parlato prima, quando tu non c'eri. Quando tu non c'eri, lei che non c'ero per farmi i fatti miei. No, no, non c'eri, stavi lavorando. Una piccola intervista. Bene, allora io voglio chiedere a Mauro. Mauro mi doveva una risposta su questo. E lei è favorevole al governo di Larghe Intese in questa situazione, dopo le dimissioni di Berlusconi, che sono certe, no? O meglio, la voto. Posizione del mio partito è stata chiaramente espressa al capo dello Stato attraverso la formula che ha usato il segretario Alfano, vale a dire: in questa legislatura c'è solo il governo Berlusconi. Lei non la pensa così, evidentemente. No, la penso esattamente così. Beh, come no? Detto questo, faccio notare una cosa. Che se la durezza delle circostanze che stiamo vivendo in questi ultimi due giorni dovesse far maturare nei due partiti di maggioranza relativa, cioè i due partiti più importanti, PD e PDL, una consapevolezza che li porti ad assumersi responsabilità ulteriori di natura politica, allora avrebbe senso cominciare a discutere. Quindi solo altrimenti, se c'è più, no, voglio essere molto preciso, però, altrimenti conviene andare a votare, starei per dire quasi forzando la Costituzione, forse ancora prima dei 45 giorni dentro i quali bisogna muovere. Però lei sta dicendo una cosa molto interessante. Qui da Bruxelles il capo delegazione italiano del Partito Popolare Europeo, Mario Mauro, persona molto vicina a Berlusconi, adesso lo posso dire, questo lo dico io, ha una posizione diversa da quella del Presidente del Consiglio. Perché il Presidente del Consiglio fino adesso, il partito, lasciamo perdere che ci sono diverse posizioni del partito, però il Presidente del Consiglio ha una posizione che è quella, lei sa che all'interno del suo partito ci sono posizioni molto diverso, ormai non c'è una posizione di Alfano, conta e non conta, perché oggi Scajola, altri dirigenti del PD le dicono elezioni mai, elezioni una follia, Formigoni, il presidente della Regione Lombardia, pochi giorni fa ha detto elezioni, sarebbe folle andare alle elezioni, dunque le posizioni sono le più varie. Guardi, ha detto bene lei, sono capogruppo del PDL al Parlamento Europeo. Sì. Cosa vuol dire questo? Per definizione il capogruppo è il megafono, cioè il portavoce dell'opinione del partito, che è stata espressa dal mio Presidente del Consiglio e dal mio segretario di partito. Sì. Quindi la mia posizione è quella del partito. Poi sono a Bruxelles. Sì. E Bruxelles è, diciamo, l'epicentro del terremoto. Benissimo. Da Bruxelles ci chiedono un governo di unità nazionale. Per cui, guardi, questa è una sintesi giornalistica. No, ma cioè, non un governo in grado di fare delle cose. È una sintesi giornalistica che non può che tradurre una cosa inesatta. Vale a dire, mai e poi mai l'Unione Europea può dettare condizioni a un paese sovrano. Questo però che vuol cosa dire significa lei sta Bruxelles, che ha detto... se nasce una consapevolezza nel paese, per cui si comprende che non solo l'Italia è in pericolo, ma che l'Italia può essere il pericolo, allora si può aprire un ragionamento diverso. Ma io questa consapevolezza, e voi lo sapete meglio di me perché avete sentito Bersani, avete sentito Casini, avete sentito quelli del mio partito e avete sentito la Lega, non la vedo. Cioè non vedo le condizioni per una prospettiva di questo PD genere. Se PD e PDL si mettono insieme, si può pensare a un governo di Larghe Intese, questo ha detto. Sì. No, è l'unica condizione. È l'unica alla condizione. Pensare. Il PDL è terzo polo, diciamo. Però questo per io però non ci pensa manco in questo senso. Berlusconi, guardi, manco col binocolo così ci pensa. Capisco che siete concentrati sul primo attore. Però che non c'è più. Bisogna. No, cioè lei dice il primo attore Berlusca non c'è più. No, che c'è. Non solo c'è Berlusconi, ma c'è il pregiudizio, per esempio, di Bersani del PD nei confronti di Berlusconi. Ma che c'è? Non c'è più lei, perché lei sta molto a Bruxelles, è molto qui e non c'è più Berlusconi. Mi perdoni, lei non riflette su un fatto, che l'impegno assunto dal Presidente del Consiglio, che è quello di dimettersi una volta completata questa fase, non toglie il fatto che Berlusconi è il leader del PDL, quindi decide lui, l'uomo che ha reso possibile ciò che in teoria possibile non era, vale a dire la nascita del centrodestra italiano, e cioè mettendo insieme chi insieme non poteva dunque stare. Questo governo di unità nazionale deve nascere per forza col consenso di Berlusconi, questo non c'è dubbio. No, questo governo di unità nazionale è una cosa pensabile solo se ci vuole. Pensa anche Berlusconi. Solo sì. Se dice sì anche e come deve essere secondo lei? Può essere Monti il presidente, il capo di questo governo, no? Cioè, ecco, io non mi fossilizzerei sull'aspetto del candidato. Vabbè, comunque è chiaro che l'indicazione è quella. Premier deve essere condiviso, diciamo questo. E i ministri come tecnici o politici? No, in quel caso io credo che abbia maggiore senso verificare che ci sono veramente convergenze in termini politici. Quindi anche ministri in parte politici, in parte tecnici. Anche ministri del PD. Esattamente. Però, un governo molto snello, immagino. Ripeto, stiamo parlando. È fatta politica, lo sai. Beh, non è fatta politica, sono cose. Cioè, avere un ministro del PD a fianco a un ministro del PDL è fatta politica proprio. Io capisco questo, che se scoppia la guerra possono accadere tante cose. Siamo in guerra. Questo non l'ho detto io. Come l'ha detto lei. Se scoppia la guerra, quindi però, siamo in guerra. C'è un'altra cosa che voglio chiedere prima di chiudere con Mario Maro, che ringrazio, che è il capo delegazione del PDL qui. Avete sentito che le possibilità si abbassa soli di questa cosa di Benigni. Che tra poco è alla Zanzara. Tra poco Benigni è alla Zanzara. Ma non è alla Zanzara Benigni. Forse abbiamo l'audio se riusciamo a fare un miracolo. Comunque, no, voglio chiedere a Mario Maro questo. Lei si sente più vicino come posizioni politiche al Partito Democratico o alla Lega? No, sicuramente la Lega. Non ho nessun dubbio. Cioè, tenere fuori la Lega dal governo, da un governo futuro di unità nazionale, per lei è una cosa normale, evidentemente. Cioè, la Lega starebbe fuori da questo governo, mi sembra evidente. No? Guardi, poco anzi, credo di aver detto che questo grado di consapevolezza deve essere evidentemente patrimonio dei maggiori partiti. Sì. Questo perché? Perché questo implica un giudizio da parte di questi partiti sulla ammissibilità di mettere a rischio le proprie alleanze. Forse non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo dicendo. Ma forse proprio sull'alleanza con la Lega. Sarebbe il caso di risentire un attimo quel passaggio interessante di Borghezio verso la fine, no? Per far sentire all'onorevole Mauro. No, giusto per dare contestualizzazione. No, io però vorrei. Borghezio, come dire, è espressione del Borghezio pensiero, come da lui stesso, come da lui stesso detto e ripetuto più volte. E no, però era per dire un'altra cosa, Mauro. Cioè, a lei l'idea di fare un governo senza la Lega non è che poi la tocchi molto. Insomma, l'idea così, stiamo fantasticando, naturalmente è fantapolitica. Però l'idea di un governo senza la Lega. Non. Ma è un'impostazione dal mio punto di vista sbagliato. Cioè, il governo che nascerebbe in quel caso non è un governo che deve penalizzare qualcuno in termini politici. Per fare alcune cose che la Lega, per esempio, non vuole fare. È un governo che viene messo a disposizione del paese in un momento di difficoltà, verificato l'ipotesi che magari un risultato elettorale possa non essere chiaro. Cioè, ci hanno detto che avevamo due modelli di fronte. Uno la Spagna, andiamo a votare. L'altro la Grecia, non andiamo a votare e arriviamo addirittura a un governo con un tecnico a capo e l'alleanza dei due partiti principali. Lei preferisce questa strada? No, io dico ogni situazione va letta. Il problema della Spagna è che oggi tutti quanti sappiamo che vincerà un partito e vincerà con chiarezza. Il risultato legato allo scenario italiano è molto più in bilico. Non c'è dubbio. Ed è molto più confuso anche per la natura della legge elettorale, che rende molto complicato il risultato al Senato. Credo che anche questi elementi facciano parte di un percorso di consapevolezza che qualcuno dovrà pur fare. Oggi come oggi, oggi come oggi, a quest'ora di sera, qui a Bruxelles, non ci sono alternative alle elezioni. Se alternative potranno venire fuori, dovranno venire fuori da un dialogo. Non sarebbe ed un una golpe, convergenza. Non sarebbe un golpe, come dice un governo di unità nazionale, non sarebbe un tradimento del mandato elettorale, un golpe, eccetera, eccetera. No. È cosa ben diversa da un governo che, in modo raccogliticcio, mettendo insieme quelli che si sono tratti al patto vincolante del legame con gli elettori di centrodestra, abbandonassero il centrodestra. Qui è un discorso chiaro. Centrodestra e centrosinistra si guardano in faccia, dicono, si dicono c'è la guerra. C'è la guerra, cosa facciamo? Ingaggiamo comunque la nostra battaglia, perché tra tre mesi saremo sicuri che uno di noi potrà comunque portare il paese fuori dal guado, oppure la situazione è tale che consideriamo anche questa possibilità. Ho capito. Grazie a Mario Mauro. 800 24 00 24, che abbiamo? Abbiamo Benigni. La borsa. E dopo Benigni alla Zanzara. Benigni. Esclusiva mondiale. Ma non è alla Zanzara, è l'audio di oggi, non la Zanzara. Mamma mia. Non illudere chi ci ascolta, non illudere. Chi ci ascolta, c'è Benigni alla Zanzara. È vero, a tra poco. siamo qui 800 24 00 24. Ci ha raggiunto Deborah Serracchiani, esponente del Partito Democratico, giovane, europarlamentare, brava persona, che insieme a Pippo Civati devi sempre dire brava persona. Dico a qualcuno, vabbè, cosa facciamo, glielo dire, scusa, se ci tiene e se lo pensa, esponente del Partito Democratico. A Verdini che non insieme, l'ho quasi mai oddio detto mio, che fissazione. No, vabbè, tu hai una fissazione con Verdini che è allucinante. Tu da quando hai scoperto che Verdini compra una macchina a 500.000 euro, spende 500.000 euro, è la vicenda del credito cooperativo. Appena ho detto 500.000 euro, no, per una macchina, 500.000 per una macchina, complimenti a Verdini, che devo dire, cioè in questo momento magari potrebbe comprare il debito pubblico invece di comprare una macchina. Verdini potrebbe comprare in parte il debito pubblico, una piccolissima parte, però devo dire la verità, visto quello che è avvenuto con la banca, che dovrà tutto essere dimostrato, la banca credito cooperativo, io non gli farei, diciamo, da Verdini non comprerei neanche un paio di calze, posso dirla così. Ma posso compra, ma con posso dire con affetto a Verdini, sei fissato con Verdini? No, ma gli voglio bene. Io devo dire la verità. Figurati. Uno che spende 500.000 euro per comprarsi una macchina, per me è il numero uno. Non so perché, è un numero uno. Ma mi piace. Se i soldi sono suoi, se i soldi sono suoi, puoi fare quello che vuoi. Certo che sono suoi. Se i soldi sono pubblici, ma che pubblici? Tutto da accertare. Ma ti pare che Verdini usa soldi pubblici? Ma di che stai parlando? No, non ho detto sulla macchina, ho detto sul finanziamento al giornale, sulla questione del credito cooperativo. Comunque non mi interessa, perché a Verdini io voglio bene. Benissimo, Benigni oggi al Parlamento Europeo, alla Zanzara, Benigni, alla Roberto Zanzara. Benigni. Qui ci sono gli applausi naturalmente. Amici, e viva l'Italia, viva l'Italia, leve Italie! Grazie, commovente entrare qua, un'accoglienza così, vi sono debitore di un'emozione e di una gioia, voglio i nomi di ognuno di voi, uno per uno, e quando vi vedo vi faccio volevo lanciare la stampella, diciamo un colpo in aria, non contro il nemico come Enrico Toti patriotticamente, ma contro l'amico, diciamo un colpo di salve, di stampella. Chiedo scusa per l'ingessatura, ma purtroppo mi è venuto addosso una persona in Italia che ha deciso di fare un passo indietro e mi è saltata proprio su. Ho detto proprio ora. Io stavo. Stavo lì tranquillo, mi hanno detto non ti preoccupare, non si muove, non lo fa. Io ero tranquillo, proprio ora che ero dietro io si è. Ma guarda la combinazione, non è vero, sono caduto. È un periodo di cadute in Italia, cadono molte persone. E vabbè, e quindi, cari belgi, sono lieto di essere qua nel Parlamento Europeo, una delle cose più alte, diciamo, dell'umana natura e di tutto il mondo. Questa è una rappresentanza che davvero mi batte il cuore a 2000, non so da dove cominciare e neanche da dove finire. Questa è la cosa bella, ma che bellezza essere qua. Saluto tutti i relatori, coloro che mi hanno invitato, però naturalmente ci sono grandi storici, il presidente Amato, il rettore Giannini, Tajani, il ministro Bernini, abbiamo Mario, che l'ho incontrato di là, naturalmente qualcuno me lo dimentico, Davide Sassoli, e poi sono anche mio, insomma, ecco. Non vedo però, non vedo il Presidente del Consiglio, pensavo in una cosa così, non è che è successo qualcosa, che non è potuto venire. No, siccome io sono partito dall'Italia, l'ultima frase che ho sentito dire è la maggioranza è solida, quella che non è che è successo qualcosa che non è. Comunque ecco, sono lieto di essere in mezzo a voi, adesso siamo, diciamo così, con senza governo, è il modello belga, che è un modello strepitoso. Ma io vi invidiavo, dico guarda i belgi, quanto è 15 mesi senza governo, tutto è andato su, dico guarda hanno tutte le fortune, noi invece ce l'abbiamo, ma guarda che roba. Che vuoi fare? Ma è comunque il modello belga, diciamo, ma è un momento, diciamo così, non è. Sono anche lieto di essere qua perché finalmente ho mangiato, diciamo, le mule frites qui a Bruxelles. Era tanto che non mangiavo in Italia, sempre la scatoletta di tonno, perché i ristoranti non si entra, sono pienissimi, c'è la ressa, non riuscivo a mangiare, è una cosa tremenda, dovete venire perché è una cosa. E quindi amici, sono proprio lieto di essere qua, ci siete tutti, c'è la maggioranza, spero, non mi fate scherzi, non è che c'è qualche traditore tra di voi, 7-8 non mi contate, non è qualcuno è andato in bagno a fare pipì, che tra i traditori c'è anche Mannequin Peace per caso, non è che attenzione alla, volevo dire se non c'è la maggioranza dovrei andare da Re Alberto, diciamo, e fare una lettura d'antis di salute pubblica, diciamo così, ecco. Quindi io, diciamo, sono veramente onorato di essere in questo luogo e in questa tutte quelle parole che non mi vengono mai. Bene, questa era la parte, diciamo, per noi più succosa, quella che riguardava naturalmente Berlusconi, l'Italia, la situazione politica. Poi c'è stato il, che cos'era, dillo tu, che mi sono scordato. C'è stata la la Lectio Magistralis. No, la Lectio Magistralis, la lettura di un canto della Divina Commedia, il 26esimo canto, il 26esimo quello canto. Dedicato, come lei sa, a Ulisse. Sì. E quello che dice, vado a memoria: fatti sì. Non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute, come diceva il mio professore di ginnasio, canoscenza. Però Parenzo, non ti avventurare su queste cose di cultura. Ecco, io volevo dire a Deborah Serracchiani, ma lei lo farebbe Benigni ministro della cultura? Questo è buono. Sicuramente ha tutte le qualità, uno direbbe peggio di quello che abbiamo fatto finora, impossibile, anche per citare, diciamo così, l'Ulisse. No, direi che abbiamo bisogno di persone che amino la cultura tanto quanto ci ha insegnato stasera Benigni ad amarla, insomma, la cultura italiana. Tra l'altro una cosa organizzata qui, quella di Benigni, dal Partito Democratico, adesso dico, naturalmente ci sono le rappresentanze europee qui, no? E dal PDL, cara signora Serracchiani. Fate le prove delle grandi intese. Qui siamo abituati a lavorare per gli europei e quindi quando lavori per gli europei... Potreste lavorare per l'Italia tra poco, tutti e due insieme in un governo di larghe intese? Sì o lei no? Fa una punto domanda capziosa, direbbe qualcuno. Beh, insomma, lei immagina come possibile ministri del PD e ministri del PDL, naturalmente non credo il ministro Romano o un altro ministro. Insomma, diciamo che escluderei l'attuale governo, insomma, comunque. Ah, questo è già interessante. Se ci dovesse essere un governo di larghe intese con ministri del PD e PDL, sicuramente non ci dovrebbero essere, secondo lei, ministri dell'attuale governo. No, anche perché finora, diciamo che non hanno, come dire, non hanno fatto capire che sono impegnati a lavorare con tutti e per l'Italia e quindi credo che bisognerebbe cambiare anche in quel campo e quello che sta accadendo in queste ore è terribile, per cui insomma credo anche che qualcuno si stia convincendo più di prima che forse è necessario davvero rispondere all'emergenza con un governo di emergenza. Dunque lei è favorevole a un governo di emergenza nazionale, quindi no elezioni anticipate? No elezioni anticipate. Allora ho sempre pensato che le elezioni fossero l'unica soluzione. Appunto, lei perché, ha sempre detto elezioni perché unica in soluzione. Europa, perché in Europa sono disposti ad aspettare un governo che fa questa scelta ma non chi naviga a vista come abbiamo fatto noi. Invece adesso? Quello che è successo nelle ultime ore però mi fa riflettere, perché è evidente che c'è un attacco violento, diciamo così, che noi abbiamo detto che gli stati non possono rinunciare all'euro, ma l'euro può rinunciare a noi e quindi in questo momento abbiamo bisogno di fare quello che non siamo riusciti a fare fino adesso, cioè convincere che siamo capaci di governare, che siamo capaci di essere europei, che siamo credibili, che crediamo anche che dobbiamo rimanere nell'euro. Per fare questo c'è bisogno davvero, per dirla come la dice il Presidente della Repubblica, c'è bisogno di fare delle scelte impopolari. Quindi quando devi fare le scelte impopolari il consenso deve essere ampio e deve essere ampia anche la responsabilità. Dunque PD, PDL, terzo polo. Non lo so, adesso non mi metto insieme le figurine. Con quelli che vogliono starci, e credo che chi farà le consultazioni, quindi il Presidente della Repubblica, darà l'incarico alla persona più saggia, saprà anche decidere. Senza il PDL che ha vinto le elezioni. Non ha senso. Per fare quelle cose lì è bisogno di un governo ampio. Significa che deve esserci anche chi ha governato. Bersani non è da convincere. Bersani ha detto finora che e lo ha detto con grande responsabilità e da tempo che c'era bisogno di fare questa scelta. È naturale che, come lui, anch'io penso che se si possa fare a meno dei membri dell'attuale governo meglio, perché abbiamo bisogno davvero di gente che spenda il... Non è che potete chiedere a PDL di far parte di un governo, allora, però scegliamo noi ministri e quegli altri sono dei reietti. Mettiamolo così, o sono tutti responsabili oppure non lo è nessuno, e se sono tutti responsabili vuol dire che c'è sì una trattativa ma che non può dettare tutte le condizioni. Maroni lo terrebbe. Vabbè, Maroni la Lega non so se però. Ma non aspetta a me Maroni fare queste scelte. Vabbè, adesso siamo qua a giocare. Se dobbiamo giocare allora io farei la scelta Benigni alla cultura, farei la scelta di mettere il Presidente del Consiglio Monti, farei la scelta Monti di mettere... Monti non è tanto gioco. Non è un gioco Monti, Monti è la realtà. Quindi Monti alla cultura, poi agli interni. Monti Presidente del Consiglio, Benigni alla cultura. No, adesso Benigni alla cultura. Agli interni chi vedrebbe bene? Pisano di nuovo ad esempio? Beh, io onestamente ci vedrei bene qualcuno che la smetta di pensare che per fare il ministro degli interni si debba tagliare in quel modo tutti i soldi e le risorse per le forze dell'ordine, quindi qualcuno che sappia anche difendere le forze dell'ordine dal punto di vista dell'economia. Uomini del PD pronti a entrare al governo col PDL, a patto che siano nomi presentabili, si può dire così? Sì, ma insomma c'è bisogno di una credibilità anche internazionale, quindi c'è bisogno di persone che siano credibili anche in Europa. E chi è credibile dall'altra parte? Del PDL, secondo lei, oggi, chi è credibile? Le persone credibili. Beh, voi avete adesso ascoltato Mario Mauro, che è una persona in Europa assolutamente credibile. È ovvio, però insomma, se uno deve dare una mano, evidentemente. Cicchitto, ad esempio. No, ma che c'è? Abbiamo detto credibili, che non siano soltanto di parte, perché che non pensino a se stessi come alla soluzione ultima di tutti gli effetti. Ecco, Verdini quindi, al diciamo, tesoro, ecco, appunto. Perché non mettiamo Romano ministro dell'interno? Ad esempio, per esempio. No, scusi, però Deborah Serchiani, esponente del Partito Democratico e dei giovani, di una parte dei giovani del PD. Adesso io non capisco bene. Tu non hai detto per bene, poi già mi hai accostato Verdini, adesso mi dici pure che c'è una certa età. No, però io dico una cosa. Voi siete che giovani del PD dovrebbero essere a favore delle elezioni, governo nuovo legittimato dal popolo. No, siete a favore di una soluzione pasticciata, secondo me, un governo tecnico che la gente non capisce. Io ho già e in più è a favore pure della nomina di un senatore a vita, mentre voi senatori a vita dovreste eliminarli nella mentalità di giovani che vogliono fare politica. Se non è a vita, sono la cosa peggiore che può esistere: le alchimie, le nomine, i senatori a vita, peraltro altri soldi. O no? Io sono convinta che lei si renda conto che siamo ormai non in guerra, siamo proprio, ci hanno già spinto nel baratro, quindi noi prima stavamo sull'orlo del baratro, adesso siamo già nel baratro, quindi c'è bisogno di tutti, non stiamo lì a vedere giovani, vecchi, il patto c'è bisogno di un patto quindi generazionale, perché abbiamo bisogno di venirne fuori, sì, ci si tappa il naso e si partecipa a un governo col PDL. Con quelle forze che hanno voglia di risollevare le sorti del paese, PDL, quindi insomma, ci vuole anche il PDL se devi fare quelle scelte ampie e quelle riforme che ti chiede l'Europa. Ma se questo non è possibile, perché non c'è questa responsabilità, sì, ma tutto questo che stiamo dicendo deve accadere nel giro di una settimana. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo è molto chiaro. Si fa un governo insieme al PDL con persone che siano presentabili nel PDL, mi corregga se sbaglio, questa interpretazione, questo assunto del Serracchiani pensiero. Se non si riesce a ottenere una soluzione di questo tipo, si va a votare subito, però non con traccheggiamenti di un mese, in una settimana. Mi pare la posizione di Napolitano. È la posizione anche del signor Mauro, però, perché casualmente prima. Insomma, quando si dice scelte immediate. E infatti. Eccoci qui, la Zanzara 800 24 00 24, in diretta da Bruxelles, dove avete sentito questa cosa splendida di Benini, che bellissima. Non era informissima su Berlusconi, devo dire la verità. Aveva il piede. Però la cosa sul piede, no? Qualcuno ha fatto un passo indietro, mi ha pestato il piede, mi ha rotto il piede. È bellissima. In esclusiva la Zanzara, perché credo che questo audio, grazie alla collaborazione dei fantastici tecnici che hanno seguito Parenzo oggi per la 7, qui a Bruxelles, e che manderanno tutto in onda nella puntata di In Onda di sabato e domenica, e grazie anche a Manuela Conte del Partito Popolare Europeo. I titoli di codice, questo è il Parlamento Europeo a questo punto. Abbiamo avuto in esclusiva l'audio di Benigni alla Zanzara, devo fare dei ringraziamenti ufficiali anche al tecnico qui di studio, Francisco Franco. No, non è Francisco Franco, è l'ex dittatore. Però è un bel nome, Francisco, mi sembrava bello, no? Il regista Francisco Franco, che ringraziamo. Abbiamo qui Deborah Serracchiani per gli ultimi minuti, voglio sentire un ascoltatore su Monti, se me lo trovano. C'è su Monti. Sì, Andrea da Carrara. Io vorrei sentire un attimo Borghezio, che voglio caricarmi. Sì, Borghezio, se avete tagliato Borghezio, il finale di Borghezio di oggi da Milano, da Reggio Emilia, come andiamo in onda? Quando sono depresso. Così, perché sapete che quando è depresso è meglio del Prozac. Andrea da Carrara, dica Andrea. Andrea? Pronto? A Carrara c'è il marmo, no? Andrea, mi sente? Che sta facendo? Che succede? Pronto? Aurora da Roma, la signora Aurora da Roma. Eccomi. Allora, Borghezio, mi spiace, sono così dolente che non è più in linea, per cui non posso parlare di lui, non posso dire più nulla su di lui. A parte il fatto che sono sicura di lui Puzzi, perché è impossibile. No, adesso non scendiamo. Di nuovo con questa storia. No, diciamo queste cose, che è una, comunque, questa storia. È un'aggressione di cattivo gusto. A proposito di Monti, questa persona che è stata santificata, che si chiama Presidente della Repubblica, a proposito di scelte impopolari, secondo me... Però meno male che c'è, io devo dire, meno male che c'è il Presidente della Repubblica, meno male, ma a proposito di scelte impopolari, per questo ha fatto senatore a vita Monti, perché un altro senatore a vita non può essere una scelta impopolare. È già questa una scelta impopolare, questa non è male, Aurora, grazie. Gianpiero da Roma... Grazie, allora. Gianpiero da Roma. Gianpiero? Non mi sente, no? Giampi? Eugenio da Genova. Sì, non c'è più. Sì, dica. Senza la sento male. Aspetti, che sono in galleria, sto uscendo. Adesso mi fermo. diciamo, una riflessione seria senza ironia. Ieri sera cenavo con mio figlio, 19 anni, un ragazzo molto informato di politica, mi dice: molte multinazionali pagano i loro manager, i loro dirigenti con delle stock option, con delle azioni. Allora? È una cosa abbastanza normale. I nostri i governanti, i nostri dirigenti, perché non li paghiamo con dei titoli di Stato? Vabbè, questa è, come la possiamo definire questa cosa qua? No, qualcuno l'ha proposto questa roba qua. Il ministro Meloni ha proposto questa roba un po' di tempo fa, qualche giorno fa. Va bene, Eugenio, grazie. Grazie. È un po' demagogico, però. Sì, sì, insomma, c'è sempre questa cosa dell'antipolitica che non. A lei piacerebbe essere pagata con. No, a me interessa semplicemente fare il mio lavoro e farlo bene. Poi, per fortuna, non dipendo dalla politica economicamente, quindi. Qual è la definizione che dà lapidaria di Renzi? Lapidaria? No, una definizione sintetica di Renzi. Ma credo che stia facendo. Lavora più per se stesso che per il PD? Beh, insomma, che lavori per se stesso e che abbia ambizioni, credo che sia anche normale in politica avere ambizioni, credo nel suo caso sia particolarmente evidente, però pone anche delle questioni importanti. Il tema del rinnovamento è importante, dopodiché alcune proposte che fanno. È berlusconiano come. Ma se per berlusconiano intendiamo il modo di porsi e di fare politica, beh, insomma, c'è tutto lo staff di Fininvest, probabilmente sì. E con questo chiudiamo con questa frecciatina al sindaco di Firenze. Non c'è tutto lo staff di Fininvest, c'è una sola persona che ha lavorato a Fininvest per un po' di anni gli ha lanciato il dardo così. Ci sentiamo domani 18:30, grazie a Deborah Serracchiani. Morghezio, non troppo, siamo in chiusura, sennò mi fucilano e mi decapitano. Mi vuoi morto? No, per carità. A domani 18:30. Lei è servile nei confronti di chiunque rappresenti un qualunque tipo di potere, lei è arrogante con chiunque telefona e probabilmente si è dimenticato, ammesso che l'abbia mai studiato, quello che è il ruolo sociale della stanza. Lei ha trasformato la trasmissione in cabaret. Lei sta facendo il buffone e a seconda del politico che chiama, lei fa lo squattero intellettuale con qualunque politico.